il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Nella puntata di questa settimana parliamo di olio di oliva, una delle cosiddette eccellenze dell'industria agroalimentare italiana e anche veneta. L'olio di oliva è però anche uno dei prodotti a maggiore rischio di frode alimentare, forse perché è facile camuffare un olio di bassa qualità e spacciarlo per uno di livello più elevato. Per contrastare questa situazione è stata approvata a dicembre una nuova normativa nazionale che dovrebbe inasprire la lotta alla contraffazione dell'olio d'oliva e tutelare maggiormente i consumatori. Di tutto questo vogliamo parlare oggi con Daniele Salvagno, cotitolare e responsabile commerciale di Redoro, il più importante oleificio veneto. Benvenuto, dottor Salvagno. Buongiorno a tutti. Ecco, prima di parlare del tema di oggi, volevo chiederle anche di fare il punto sulla situazione dell'olio di oliva del Veneto, come è andata la stagione, il raccolto dello scorso anno e dal punto di vista della qualità anche, come siamo messi. Beh, a livello qualitativo è stato un anno eccezionale. L'unica cosa, abbiamo avuto dei problemi di siccità nel periodo estivo e quindi ha ridotto leggermente la quantità. Comunque è stata una stagione generosa perché poi le rese ci hanno aiutato e bene o male abbiamo portato a casa la stagione, insomma. Dicevo all'inizio che l'olio d'oliva è una delle eccellenze agroalimentari anche della nostra regione, però è anche una di quelle a maggior rischio di frodi. Come mai? Oddio, perché si sono sempre improvvisati tante aziende a vendere olio. Se per noi è sempre stata la nostra storia, la nostra tradizione vendere un olio di qualità 100% italiano, per molti oggi è una moda. Quindi è la storia, è il tempo che dà l'affidabilità di realtà sul territorio e quindi bisogna un po' sempre verificare l'attendibilità di un'azienda, come è presente, se hai frantoi di produzione è importantissimo, vero? Parlare di olio vuol dire anche avere il frantoio per lavorare le olive, questo è una delle basi per poter essere considerati produttori di olio che proviene d'oliva. Ecco, invece molto spesso l'olio che arriva sulle nostre tavole, quello che credo che il consumatore compra di norma al supermercato, non arriva da aziende che hanno direttamente il proprio frantoio e che lavorano le proprie olive. Molto spesso si affidano al mondo commerciale, no? Quindi chiunque si propone di vendere dell'olio, ma prendi il mio perché è buono, ma non è sufficiente che si dica che sia buono, bisogna anche avere delle origini, delle radici, delle basi per poterlo essere, insomma. E direi che a maggior ragione la legge che è stata messa in piedi è una legge proprio perché non si venga detto ma si venga scritto. Carta parla, villa non dorme. Quando mi scrivi un olio che è 100% italiano voglio avere la garanzia che lo sia e me lo scrivi in etichetta. Ecco, cosa prevede quindi questa normativa che è stata approvata, ricordiamo, proprio subito prima di Natale, quindi da pochissimo? Ma è una normativa nella quale si fa un po' piazza pulita su quello che può essere i dubbi che può avere un consumatore e quindi si mette allo scoperto chi sono realmente i produttori, chi ha sempre fatto il suo bel lavoro e chi invece un po' meno. E non solo, ma la normativa parla, oltre che di scrivere in etichetta l'origine con 100% italiano e non tanto una bandiera italiana che fa a pensare che sia italiano, la cosa bella è stata il fatto che hanno dato dei valori interni dell'olio nei quali si va a capire se fuori da questi parametri che l'olio non è originale italiano, quindi gli archi di esteri è stato uno dei primi passi, ma ce ne sono tanti altri. Adesso verrà avanti anche un aspetto di DNA dell'olio d'oliva in modo che si ha la certezza dell'origine del prodotto, insomma. Quindi attualmente se noi vediamo sullo scaffale una bottiglia di olio di oliva con la bandierina italiana, questa non significa che sia olio fatto da olive e coltivate. deve esserci olio 100% italiano con tanto di codice alfanumerico che ogni singola azienda che produce quest'olio viene scritto e identificato a un numero alfanumerico che ogni regione di appartenenza appone a ogni singola azienda. No, no, ecco, la normativa direi che fa, oltre che chiarezza, fa del bene a tutto quello che è il comparto, insomma. Ci fermiamo qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Se ci ascolti per un momento, capirai. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai. I migliori in questo campo siamo noi. È una ditta specializzata. Sbagliamo mai, noi sapremo sfruttare le tue qualità. Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso per la celebrità. Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione, se non puoi te ne pentirai. Non capita tutti i giorni di avere due consulenti, due impresari che si fanno in quattro per te. Avanti, non perder tempo, firma qua. È un normale contratto, è una formalità. Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo. Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società, di noi ti puoi fidare. Di noi ti puoi fidare. Di noi. Torniamo in linea con la puntata di questa settimana del Quadrifoglio. Abbiamo in linea Daniele Salvagno, cotitolare e responsabile commerciale di Redoro, e stiamo parlando dell'olio extravergine di oliva. Ecco, una domanda che molti ci facciamo è: perché, parliamo prima di supermercati, ma non solo, quando andiamo ad acquistare l'olio troviamo, come nel vino, dell'olio che costa 2,50 euro, 3 euro, e dell'olio che costa anche una ventina di euro. Ed è sempre scritto fuori olio extravergine di oliva. Basta il fatto che uno sia nazionale e l'altro non sia nazionale a giustificare questa differenza di prezzi, cosa che non è poco, ecco. Ma secondo il mio punto di vista, penso che il consumatore non può nascondersi dietro alla non conoscenza. Quando si pensa di comprare un olio sotto i 3 euro, sa benissimo che è un olio di bassa qualità. Per avere un olio di alta qualità ce ne vogliono al minimo il doppio. Basti pensare che oggi quotiamo gli oli extravergini alla produzione a 4 euro, all'ingrosso metteteci il lavoro, il tappo, l'etichetta, la lavorazione, cioè non possono fregiarsi di oli di qualità, oli che sono sotto i 3 euro, insomma, oli certo. Extravergine oliva. Poi teniamo presente che a livello nazionale, a maggior ragione comunitario, c'è chi raccoglie sotto le piante, per terra, le olive, dove ci pascono le pecore. Non è il caso dell'Italia, e l'Italia ha delle sicurezze alimentari importantissime, e come tali e il prodotto italiano vale di più. Vale di più in termini di sicurezza alimentare, di igiene e di tecnologia. Abbiamo le migliori macchine al mondo, dove tutto il mondo ci copiano le macchine per la lavorazione delle olive e dell'olio. Siamo leader nel mercato in termini di numerica di DOP, siamo il paese che ha 40 denominazioni d'origine protette. Qualcuno ce le avrà date, perché vuol dire che il territorio merita di avere tutte queste DOP, e queste DOP è sinonimo di eccellenza. L'eccellenza che noi tutti dobbiamo esserne fieri, insomma, e orgogliosi. Non sono tante, oltre una quarantina di DOP, cioè non c'è rischio di confusione. Se in Spagna ci sono 5 varietà di olive, in tutta la Spagna, in Italia ce ne sono più di 300. Noi abbiamo un territorio che si disloca tra il nord, il centro e il sud, in tante regioni, ogni regione ha una sua caratteristica, una sua originalità, e come tale va assaporata, va assaggiata, bisogna esserne curiosi, un po' come nel vino, bisogna puntare all'eccellenza, certo, e a poter continuare a crescere anche in termini di cultura dell'olio d'oliva. Io a tavola ho sempre almeno 3-4 oli nella mia cucina di famiglia, perché mi piace avere l'olio un po' più delicato per il pesce, un armonico per l'insalata, e quando mi faccio una bella bistecca al barbecue mi metto un olio fragrante, profumato, certo, intenso. Questa è una cultura che se la si spiega e la si propone diventa un piacere della tavola. Proprio come il vino. Senti, anche il Veneto si è scoperto, mi pare, in questi ultimi decenni anche come produttore. Abbiamo l'olio del Veronese, l'olio Veneto DOP, ma anche dei Colliberici, dei Colli Urbani. Certo, abbiamo, penso, una delle DOP più belle, perché l'olio Veneto DOP abbraccia tutto il Veneto, quindi la zona un po' che fa da padrone è la Valpolicella, perché detiene circa il 70% dell'intero territorio, ma poi abbiamo i colli Eugani e Iberici, abbiamo i colli del Grappa, che sono altrettanto fenomenali in termini di valore aggiunto, perché ci sono delle varietà che danno degli oli straordinari. Sono produzioni molto limitate, anche nei colli Asolani, Marostica, Bassano, sono tutte piccole produzioni ma di eccellenza qualità. Quindi vanno assaporate, penso che il consumatore, soprattutto il consumatore veneto, sa scegliere i propri oli locali. Voi siete della zona della Valpolicella? Della Valpantena, sì, Valpolicella, Valpantena, principalmente Agrezzana, che è il cuore della Valpantena. E raccogliete olive da tutta quella zona? Sì, sì. Abbiamo circa 700-800 produttori che conferiscono le proprie olive, si fanno l'olio per casa, per i propri amici, la restante parte è frutto del conferimento, che poi va all'interno di blender d'oro. Bene, la ringrazio allora di averci un po' parlato dell'olio di oliva, e speriamo di poter approfondire nelle prossime puntate anche questo argomento. Grazie. È stato un piacere, l'importante è che se ne parli, perché il comparto dell'olio ha sempre bisogno di avere maggior cultura e maggior vivacità. Grazie. Grazie a voi. Passiamo ora ad alcune notizie. Il mercato del vino veneto e strategie dell'altro mondo è il tema del convegno che si terrà il 23 gennaio a Soave, in provincia di Verona, presso la Rocca Sveva della Cantina, organizzato da Europe Direct Veneto, sportello europeo di Veneto Agricoltura, Regione Veneto e AVEPA. L'incontro sarà anche l'occasione per presentare i risultati di un'interessante ricerca condotta da Veneto Agricoltura sui mercati vitivinicoli dei paesi del Nuovo Mondo. Le produzioni saranno analizzate sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, così come i mercati, anche quelli più lontani dall'Europa. Sempre in tema di vino, si tiene domenica 20 gennaio a Breganze la 18ª edizione della Prima del Torcolato, la spremitura pubblica degli acini di uva Vespaiola, che hanno terminato il periodo di appassimento, raccolti in lunghe trecce, e che fra 2 anni daranno vita al più pregiato vino dolce vicentino, il Torcolato. La manifestazione inizia al mattino con l'apertura al pubblico delle cantine, mentre il clou sarà nel pomeriggio con l'elezione del miglior formaggio da abbinare al Torcolato e con il tentativo di stabilire un record mondiale, quello della treccia d'uva appassita più lunga del mondo, che sarà appesa alla torre del campanile. Parliamo ora di quote latte. AVEPA, l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, informa che fino a martedì 5 febbraio i giovani coadiuvanti allevatori in zona montana e i titolari di quota vendite in zona di pianura e di montagna potranno presentare domanda di assegnazione gratuita di quote di produzione di latte disponibili nella riserva regionale. Le informazioni e la relativa modulistica necessarie per la presentazione della richiesta sono disponibili nel sito web istituzionale dell'Agenzia AVEPA. Sempre da AVEPA è partito un nuovo servizio, una email che avviserà gli agricoltori veneti del pagamento degli aiuti richiesti, anticipando di qualche giorno l'informazione rispetto al momento dell'effettivo accredito dei soldi in conto corrente. Il servizio è gratuito e attivo da dicembre 2013. Può essere attivato semplicemente comunicando un indirizzo di posta elettronica al proprio centro di assistenza agricola o allo sportello unico agricola di AVEPA. Si riunisce sabato 19 gennaio a Borgoricco, in provincia di Padova, alle ore 10, la sezione veneta dell'Associazione Civiltà Contadina, un'organizzazione non profit sorta nel 1996 allo scopo di conservare i semi antichi, di promuovere l'agrobiodiversità e l'agricoltura sostenibile. L'incontro si terrà presso il Museo della Centuriazione di Borgoricco in Viale Europa 12 e precede l'Assemblea Nazionale di Cesena del 2 e 3 febbraio. Per i soci iscritti sarà possibile scambiare i propri semi, mentre nel pomeriggio verrà presentato il libro Piccolo e Bello di Chiara Spadaro. Con questo anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima e vi ricordiamo che potete riascoltare questa trasmissione sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.